Giovedì 29 novembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, l'appuntamento con il cinema. Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi numerosi gli ospiti, come al solito chiaramente, molti autori di documentari ma anche di film che usciranno in sala proprio oggi, Francesco Amato e Tony Trupia per essere più precisi. Tutte le informazioni comunque le trovate sul sito della radio, sito internet della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. E per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Tony Trupia, ci sei? Eccomi qua, buongiorno a tutti. Come va? Beh, è una giornata uggiosa di pioggia, ma bene, sono molto carico perché stasera abbiamo l'anteprima del film all'Adriano. Esatto, allora stiamo parlando di Tucker, vietato agli italiani, in uscita oggi nelle sale. Allora Tony, chiaramente per chi ci ascolta diamo qualche riferimento di trama. Beh, la storia di un bambino che dal Trentino parte per un viaggio in Germania dove il padre fa l'operaio. Questo bambino è orfano e viene accompagnato in questo viaggio da uno scavezzacollo, insomma un giovane operaio napoletano che ammire di grandezza, infatti cerca di fare il magliaro, di diventare ricco facendo il magliaro in Germania. Il personaggio di Benito Stigliano è interpretato da Francesco Scianna, che insomma credo sia uno dei migliori giovani attori che ci sono in Italia in questo momento. Una volta arrivati in Germania il padre non lo trovano, e questi due personaggi sono costretti all'inizio a una convivenza forzata, ma poi man mano che il racconto va avanti si scoprono in qualche modo legati dall'idea di una paternità possibile per il personaggio di Benito e di un padre ritrovato da parte del bambino. Senti Tony, chiaramente una storia ambientata un po' indietro nel nostro passato nazionale. Volevo chiederti intanto come nasce il progetto. Beh, la storia è ambientata nel 62, apparentemente c'entra poco con me, io ho 33 anni, quegli anni non li conoscevo prima di cominciare a lavorare a questo progetto. Lo stimolo è arrivato da una proposta di Michele Placido, che aveva sentito casualmente la storia di un signore che da bambino aveva fatto un viaggio in treno per andare a Milano a trovare il padre, e mi ha veramente spinto a approfondire questo tema e questo spunto di racconto. All'inizio ho faticato un po', non era, insomma, come ti dicevo prima, era qualcosa che era molto lontano da me, dal mio anche dalla mia formazione culturale. Però poi insieme allo sceneggiatore del film, Leonardo Maria, abbiamo trovato una chiave possibile per attualizzarla, per avvicinarla a noi, e abbiamo pensato di raccontare una storia di paternità ritrovata, che ci sembrava in qualche modo naturalmente legata al tema dell'emigrazione come tema. E quindi insomma, da lì, nel momento in cui abbiamo colto questa assonanza tra appunto il concetto di emigrazione, quindi di perdita dell'identità, e poi una ricerca personale invece fatta dai personaggi della propria identità e di un proprio legame affettivo, allora è diventato tutto molto semplice. Oh, tra l'altro, per ricostruire in maniera un po' accurata il periodo degli inizi degli anni 60 tra l'Italia e la Germania, se non sbaglio vi siete spostati ad est. Siamo stati a girare a Bucarest, il film è stato girato per due settimane in Trentino, comunque tutto l'inizio del film è Trentino, e poi abbiamo cercato una Germania ideale, possibile e necessariamente vicina a quella che era la Germania degli anni 60 a Bucarest. All'inizio io avrei voluto in realtà cercare l'ambientazione del film nella Germania di oggi, ma la Germania di oggi è un paese molto molto diverso da quello che era negli anni 60, si è modernizzato, è diventato insomma molto molto più vistoso. A suo motivo che ci ha spinti a girare in Romania è la coproduzione, il film è una coproduzione italo-rumena, devo dire che è stato sostanziale. Una cosa bella dell'esperienza in Romania è stato di poter portare dentro il film delle facce che sono quelle dei rumeni di oggi, che ricordano molto le facce degli italiani degli anni 60, lì devo dire che è stato un grande arricchimento, abbiamo avuto degli attori magnifici, dei tecnici molto bravi. Ecco, proprio a proposito di migrazione, è interessante legarla all'oggi e alla dimensione che visse l'Italia allora, visto che oggi i migranti arrivano per lo più in Italia rispetto ai migranti italiani che vanno all'estero, e le difficoltà, le avversità a tratti razzista che trovavano all'estero, e poi i contrasti interni alla comunità, ma anche i gesti di solidarietà, sembrano storie che rimandano chiaramente all'oggi da un altro punto di vista, da quello di chi arriva oggi qui. Assolutamente, questa è stata un'altra delle motivazioni che voi, mi sono state immediatamente chiare nel momento in cui ho focalizzato quello che dovevo e volevo raccontare. Gli anni 60, quel periodo lì, storicamente sono stati tramandati e analizzati come un periodo molto felice per l'Italia. In realtà sono il frutto anche di un sacrificio enorme, tanti italiani sono partiti per rendere questo paese poi stabile economicamente, per farlo essere il paese importante, il paese del boom in quegli anni. E trovavano molto spesso degli ambienti che erano ostili, assolutamente, vivevano nelle baracche. Sotto il titolo del mio film è vietato agli italiani, ed era molto comune trovare questi cartelli nei locali tedeschi o svizzeri, per esempio. Ha a che fare molto, probabilmente, proprio per questo, cosa dire, per questo rimosso storico, probabilmente l'Italia di oggi trova qualche problema a rapportarsi in modo sereno con chi viene da fuori. Certo. Proprio perché probabilmente ci siamo dimenticati, lo abbiamo rimosso, ci fa, è scomodo, ecco, pensare che anche noi siamo stati come loro. Probabilmente chi viene ci ricorda qualcosa che abbiamo nell'inconscio collettivo e non vogliamo tirare fuori. Senti, Tony, la tua esperienza cinematografica è comunque legata a Michele Placido, da assistente alla regia, alla sceneggiatura. Qual è stato il tuo percorso da questo punto di vista? Beh, io appena uscito dal centro sperimentale ho avuto la fortuna di cominciare a fare il volontario sul set di Romanzo Criminale. Lì ho conosciuto Michele, ha visto il mio saggio di Roma al centro sperimentale, se ne è innamorato e ha deciso di darmi delle possibilità. In qualche modo mi ha accompagnato in questi anni, facendomi anche cadere molto spesso. Però devo dire che è stato un rapporto assolutamente proficuo da tutti i punti di vista, fino a poi mettermi nelle condizioni, in un momento difficilissimo per il cinema italiano, in cui i film è difficile farli, appunto mi ha messo in condizione di fare un film come il mio, che comunque non è un film immediatamente, apparentemente commerciale, anche se poi è un film molto, invece con un carattere molto popolare. Però devo dire, veramente devo tantissimo a Michele, che tra l'altro è attore nel film, certo. Ha un ruolo veramente molto bello, che interpreta magnificamente, e anche sceneggiatore. Senti, Tony, ecco, tornando alla storia, di operai, di fabbriche, di emigrazione italiana, su quali elementi, oltre a quello chiaramente che dicevi all'inizio della paternità, avete voluto puntare la sceneggiatura, e qual è stato il vostro modo di lavorare in questo senso? Beh, c'è stato un lunghissimo lavoro di documentazione, devo dire, e con mia sorpresa in realtà poi fonti di analisi storica ne avevo trovate pochissimo. Abbiamo lavorato molto su testimonianze, io ho raccolto, veramente sentito in prima persona molti molti racconti di gente che era stata in Germania e poi magari era ritornata qui in Italia dopo un lungo periodo. E in qualche modo lo sforzo è stato quello di trasporre poi anche lo spirito di chi quell'esperienza l'aveva vissuto, in parte in modo traumatico, in parte anche come la scoperta di qualcosa che era altro dal proprio mondo, dai propri confini, perché per tante persone l'emigrazione è stata un dramma umano, ma è stato anche una spinta a guardare oltre, ecco, quelli che erano i limiti. Bisogna considerare che negli anni 60 non c'erano tutte le possibilità di informazione su quello che veniva fuori dal proprio territorio che ci sono adesso. Quindi per molti veramente sarà la scoperta del mondo. E allora il tentativo è stato anche questo, di provare a restituire questo tipo di sguardo. Il fatto stesso poi che io abbia scelto un bambino come punto di vista privilegiato per raccontare questa storia, in qualche modo è la risposta a questo tentativo e a questa necessità. Bene Tony, allora, i tucker vietato agli italiani da stasera, da oggi nelle sale, in quante copie? Beh, poche, purtroppo poche. In questo momento devo dire che far arrivare un film come questo al cinema è davvero un'impresa, però devo dire che si sta facendo un grande lavoro di diffusione in tutti i modi per far arrivare il pubblico a vedere il film. Il film ha bisogno di pubblico, esce stasera all'Adriano a Roma, stasera ci saremo io e il cast a salutare il pubblico, e poi esce in altre 8 copie insomma in tutta Italia, sperando che insomma la prossima settimana, se questa settimana funziona, possano crescere. Bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto, Tony. In lupo. Grazie davvero. A ciao, voi ciao, buona ciao. Giornata, a presto, ciao. Tony Trupia, regista di I Tucker, vietato agli italiani, in uscita oggi nelle sale. Ma che piacere, Francesco Amato, di nuovo qui su queste frequenze, Radio Onda Rossa, Visionari, eccoci qui, come stai? Ciao, ciao Fede, dopo qualche anno ci si risente, eh? Eh sì, mi sembra qui almeno 5-6 anni, se non di più. Dai, diciamo 5, va? Diciamo 5. Allora, sto bene. Ci eravamo sentiti per un gran bel esordio, Ma che ci faccio qui, film che poi ebbe anche la nomination al David di Donatello nel 2007, e torni adesso con un nuovo film, anche questo con un riconoscimento, perché è stato premiato all'appena concluso Festival del Film di Roma. Allora, intanto raccontiamolo per sommi capi a chi è all'ascolto, Francesco. Dunque, Cosimo Nicola è la storia di due giovani istintivi e impulsivi, diciamo, che vivono di valori che non sono quelli, diciamo, canonici, cioè la stabilità, il denaro, la famiglia, ma vivono di viaggio, vivono di una grande complicità fisica che ma anche spirituale, e vivono in una condizione di precarietà per scelta, di continuo viaggio, di continuo spostamento, di lavori occasionali, stagionali, come montare palchi fondamentalmente, vivono nella musica, lavorano nel presente della storia, stanno lavorando per un imprenditore di concerti, un imprenditore di musica, per il quale lei sta, Nicole sta al bar e Cosimo invece monta i palchi. E insomma, quando un evento drammatico irrompe nella loro storia, loro diventano complici, insomma, di questo imprenditore che gli dà lavoro, e rischiano di commettere un crimine molto grave, insomma, diventano complici di una sorta di omicidio, ecco. E da questo momento in poi la reazione a questa colpa sarà differente per Cosimo e per Nicole, e il loro rapporto insomma, si crea una frattura nel loro rapporto, e tutto il film è un percorso di analisi o di autoanalisi di una coppia, ecco. Mm-hmm. Oh, Francesco, per vie tangenti oppure direttamente affronti diverse tematiche, dal G8 di Genova del 2001 alla precarietà non solo esistenziale e del mondo del lavoro, e dagli incidenti sul lavoro alla migrazione. Ma guarda, se ci pensi, poi questi temi sono tutti integrati in un unico evento che fu proprio il G8, che è il luogo fisico e il luogo morale, ed è il luogo civile dove Cosimo e Nicole si incontrano alla manifestazione, proprio nel momento della violenza, ecco. Noi viviamo questo momento che è raccontato nel film in un'unica scena, diciamo, di flashback, però viviamo drammaturgicamente e a livello di senso questo momento come spartiacque nel rapporto di questi due nostri personaggi, e che da questo momento, insomma, vivranno un certo disorientamento, no? con le istituzioni, con lo Stato, con l'idea delle frontiere, no? Io non credo che questo film parli di tanti temi, credo che parli di un tema solo, che è quello del rapporto tra le culture, ed è esattamente quello che aveva mosso tanta gente verso Genova nel 2001. Ci terrei a sottolineare, Fede, che non è un film sul G8 questo. Sì, sì, no, certo, è la molla di partenza, è stata, insomma, nella storia del film, della sceneggiatura, quella è la molla di partenza. E a proposito di culture, Francesco, nel film, per quanto riguarda l'ambito musicale, ci sono parecchi e diversi gruppi esponenti di una cultura musicale di qualità underground. Sì, ci sono i gruppi che piacciono a me, ci sono i gruppi con cui sono cresciuto. Il primo brano del film è Sonica dei Marlene, che è un brano di Catartica, credo del 95-96, sì. E cioè uno dei gruppi di riferimento anche della mia adolescenza. E poi ci sono gli After Hours, i Verdena, i Bud Spencer Blues Explosion, Sandro Joyeux, insomma, è un mondo musicale che è quello che mi appassiona. Ecco, la molla drammaturgica l'hai detta tu prima, la molla interna, intima, il primo sentimento che mi ha fatto pensare a questo film è stato proprio il vivere i concerti, il valore anche formativo, no? Dei concerti, e questi sono concerti veri, noi li abbiamo girati tutti dal vero, con pubblico vero, e che abbiamo tentato, insomma, di integrare con i nostri attori. Sì. Hanno recitato un po' per noi, diciamo, questi i nostri amici musicisti. Senti, tornando alle tematiche, da diversi stimoli, ecco, come siete riusciti come avete scelto poi di articolare questo viaggio piuttosto variegato e complesso dei due protagonisti, delle loro coscienze? Ma guarda, in realtà noi volevamo... Io ho visto, sì, molti anni fa una mostra di una fotografa americana che si chiama Nan Goldin, ero a Parigi, e lei fotografava delle coppie di amici nella loro intimità, nei momenti di quotidianità, ma anche, insomma, nella sessualità, ecco. E questo è stato uno dei primi stimoli che mi ha fatto immaginare ad un percorso cinematografico su un tema di questo tipo, no? Sì, sì, e sì. Quindi il percorso di Cosimo Nicol non è molto, è piuttosto classico, insomma, sono due che si innamorano e stanno molto bene insieme, e poi a causa di un senso di colpa tra loro si crea una frattura, ma perché loro reagiscono in maniera diversa al senso di colpa, insomma, al male che hanno provocato, e noi l'abbiamo vissuta un po' come una maniera di diventare adulti in due modi diversi, che poi rischia di separare, ecco. In realtà dall'inizio voleva essere un film sulla separazione, poi in realtà ho pensato che insomma, due che hanno questa complicità avevano diritto anche ad un riscatto e insomma avevano diritto forse di avere un'occasione per provare a restare uniti, ecco, provare a restare insieme. Sì, e questo è il finale del film, però io non ti dico come va a finire. Certo. Senti Francesco, qualche anno, come ricordavamo all'inizio, è passato dal tuo film d'esordio. Ti volevo chiedere cosa è successo nel frattempo e dopo questo, invece, dopo Cosimo e Nicole, su che via ti sei incamminato? Ma guarda, tra questi due film c'è stato c'è stata innanzitutto una bambina, nel senso che sono diventato papà, ma questo ti interessa relativamente, e da un punto di vista cinematografico ho lavorato un po' con Lucio Pellegrini ad una serie TV che si chiamava Liceali e ho fatto molti documentari in Africa per Slow Food e ho scritto questo film che è stata una comunque esperienza molto impegnativa e ne ho scritti anche altri. E nel mio futuro, guarda, credo che ci sarà la voglia di scrivere una commedia che sto già scrivendo. Bene, bene, allora sicuramente avremo modo di risentirci, immagino. Senti, sì, magari non tra 5 anni, magari un po' no, prima. Stringi un po' i tempi, magari. Dipendesse solo da me, dai. Senti Francesco, allora da oggi Cosimo e Nicole nelle sale, quante copie? 40 copie. 40 copie. Io ti abbraccio, è stato un piacere riaverti con noi e stavolta speriamo a presto. Sì, assolutamente Federico. Ti ringrazio tanto. Ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Francesco Amato, regista del film Cosimo e Nicole, in uscita oggi nelle sale, in 40 copie, come ci ha appena detto. Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, proseguiamo. Siamo in compagnia di Francesca Archibugi, regista del documentario Giulia ha picchiato Filippo, presentato domenica scorsa nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Francesca, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buonasera. Allora, dici un po' di questo documentario, a partire dal titolo, molto interessante. Beh, diciamo, il titolo è un po' un paradosso, come dire, uomo morso cane, perché alla fine c'è una piccola scena di fiction dove c'è uno scontro fra due bambini in una scuola materna e sì, quindi anche uno scontro fra i genitori che sono Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. Allora, chiaramente parliamo del tema che hai affrontato e anche come è nata l'idea e poi come hai sviluppato il lavoro. Ma l'idea è stata, diciamo, molto classica, nel senso che c'è questa associazione che si chiama Differenza Donna, che gestisce i centri antiviolenza della provincia di Roma, che mi ha chiamato per fare un documentario, per raccontare un po' la loro attività, che gli sembrava che fosse diciamo poco conosciuta. Sì. E invece c'era bisogno proprio di divulgare il numero, le possibilità di avvicinarsi, e così mi hanno dato completamente carta bianca. Io ho fatto questo strano piccolo film, metà documentario e metà di finzione, con moltissime testimonianze di donne, ma anche di operatrici. E, insomma, ci ho messo un po' di tempo anche per informarmi io stessa per prima, perché credevo di saperla la storia, credevo di essere una persona informata, poi invece quando vai dentro le cose, certo, ti rendi conto che sei pieno di luoghi comuni. Certo, ecco, proprio a questo proposito, Francesca, cosa hai scoperto nella frequentazione dei centri antiviolenza? Beh, la prima cosa è che il primo luogo comune è che non è vero che avviene, sono cose che avvengono in famiglie disagiate o culturalmente o economicamente. è una cosa che riguarda tutte le classi sociali e io mi sono concentrata proprio sulla violenza domestica, su quello che accade dentro casa, perché le forme di violenza sulle donne, le violenze di genere sono tante, lo stupro, certo, la tratta. Io mi sono invece concentrata solo su questo e mi sono resa conto che non c'è veramente nessuna differenza di censo. E questa è una cosa importante, perché su questo si può fare, diciamo, sapendolo, anche più controllo, perché apri gli occhi su tante situazioni, su delle tue amiche, su delle persone che conosci, perché i numeri sono enormi. E tutti noi abbiamo qualcuno vicino che ci vive, una donna, che ci vive come un fantasma. Ecco, dicevi di un fenomeno diffuso, molto diffuso, quello della violenza dentro le mura domestiche. Quali sono i modi in cui nei centri viene affrontato questo dramma? Guarda, sono la cosa più intelligente che si possa fare in questo modo, cioè a ognuno il suo metodo, perché è vero che sono storie molto simili, però è anche vero che le persone sono tutte diverse. Quindi, diciamo, ciò che è molto organizzato e strutturato è il pool, che è fatto di psicologhe, di assistenti sociali, di avvocate, che è molto importante metterle subito ad avere relazioni con le forze dell'ordine e farsi aiutare. Però mi sembra che veramente il rapporto sia innanzitutto umano. Sì. Le donne che si rivolgono a queste operatrici trovano delle persone di grandissima esperienza, molto motivate, che anche questo è importante, cioè che non lo fanno soltanto come lavoro, ma è una cosa importante della loro vita e è un lavoro nel quale ci mettono tanta passione. Quindi tutte le donne che sono entrate nei centri, hanno avuto contatto con i centri, che erano convinte che la loro vita in qualche modo finisse, si sono invece rese conto che cominciava un altro percorso, un'altra epoca, e tantissime possibilità di rinascita per loro e per i figli, perché quasi sempre hanno dei bambini. Francesca, un'altra curiosità, visto che comunque siamo in un ambito di drastici tagli alla sanità, immagino che anche i centri antiviolenza affrontino un problema in questo senso. Guarda, non sono informata su questo, e spero proprio di no. Nel senso che sono strutture che comunque non sono costose, perché sono costose come tutti gli interventi pubblici, però diciamo sono gestite molto bene. Sì. E quindi non ci sta corruzione, non ci sta che sono tutti i problemi che affliggono la sanità. I problemi che affliggono la sanità o tantissime opere pubbliche, il fatto che noi ci dimentichiamo che siamo un paese sotto il tacco della criminalità organizzata e della corruzione. Quando viene gestito da organizzazioni pulite, i costi sono molto molto più contenuti, e ti rendi conto anche che la spesa sociale non è questa cosa disumana o un lusso inarrivabile per il nostro paese. Senti, a fronte di un fenomeno che immagino abbia una forte componente di sommerso, sono molte le donne che si rivolgono ai centri? Sì, sono migliaia. Sono migliaia, e quelle che arrivano al centro hanno già una consapevolezza, già si rendono conto che devono essere aiutate. La cosa terribile di questo fenomeno è che tantissime donne non si rendono conto di essere delle vittime, cioè sopportano le botte come che è una cosa transitoria, poi lui cambierà, poi sarà l'ultima volta, poi non lo fa, ma in un senso di minimizzare e giustificare loro per prime, perché il grande nemico della violenza è la minimizzazione, è quello di, come dire, rendere quotidiano il fatto che un uomo ogni tanto gli possa scappare uno schiaffone. Senti Francesca, che tipo di distribuzione avrà o comunque di diffusione questo lavoro? Ma guardaci, innanzitutto diciamo la differenza donna, insieme al Ministero delle Pari Opportunità, che è quello che l'ha finanziato integralmente, e hanno un programma di diffusione sia nelle scuole che nelle università e in tutta Italia. E poi vedo che mi comincia a essere richiesto da tantissimi festival, anche cinematografici, quindi diciamo ha come una specie di doppia vita, però io sono veramente più contenta che faccia la sua vita per il quale è stato fatto, cioè raccontare sempre a modo mio questa storia, io la chiamo storia, diciamo queste storie, senza, tentando di non metterle sotto quella cappa sempre tragica, ma invece cercare di dare coraggio e spinta se capitasse sotto gli occhi di una donna che vive una cosa del genere. Senti, tu o il tuo documentario, avete un sito internet di riferimento per chi volesse saperne di più? Ma guarda, Differenza Donna, il sito di Differenza Donna. Va bene. Francesca, allora ti ringrazio e spero di risentirti presto. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Francesca Archibugi, regista del documentario Giulia ha picchiato Filippo. I contatti per inviarci posta elettronica visionari@ondarossa.info. Oh, l'abbiamo citato prima, il Festival del Film di Roma, ci torniamo per parlarne con Luca Ferrari in merito al suo documentario Pezzi, che ha ricevuto il premio come miglior documentario alla 7ª edizione del Festival. Luca, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, una storia durissima, io l'ho visto, è veramente pesante la realtà che hai affrontato, raccontacela un po', soprattutto per chi è all'ascolto. Io praticamente ho seguito alcune persone che vivono a Laurentino 38 per circa un anno e mezzo, due. L'approccio è stato molto molto molto lento, nel senso che prima poi di entrare all'interno del loro mondo e farmi accettare ci sono voluti mesi. Quando ho iniziato io ho iniziato come fotografo, ho iniziato a fare un reportage fotografico. Poi quando ho iniziato a vedere che comunque sia il rapporto che si era creato con loro era molto molto intimo, ho iniziato anche a girare dei video. Adesso insomma con le macchine fotografiche fanno dei video in alta risoluzione. E niente, poi mi sono reso conto che il materiale che stavo raccogliendo era molto molto forte e poi dopo un po' di mesi ho dato, diciamo, la priorità al documentario, ho iniziato a fare soprattutto video rispetto alle fotografie. Senti, ma il progetto fotografico era legato a un tema particolare, per esempio la periferia o ad esempio la tossicodipendenza? No, io era più sulla periferia. Guarda, io ho iniziato a girare, ma veramente in maniera esplorativa quasi, d'estate, nel 2009, nell'ora più calda, quella più deserta, dove Roma è deserta, tipo tra mezzogiorno e le 2, era il 9 agosto, mi ricordo, e mi sono fermato, cioè, in questa baracca, che anche adesso non c'è più. La baracca come quelle di Brutti, Sporchi e Cattivi, era veramente la stessa cosa. E ho iniziato a bere Tavernello, questo è quello che ho fatto, insieme a questo il padrone di questa baracca che si chiama Armando, che saluto, penso che non mi stia ascoltando, però lo saluto comunque, che poi era un ex pugile, campione del mondo delle forze armate. A me questa cosa mi ricordava film di altri tempi. Io ho iniziato a frequentare questa baracca, ma anche senza fare foto o fare video, insomma, a frequentarla. Questo era un punto di ritrovo per molte persone, insomma, che passavano, si fermavano, mangiavano una cosa, bevevano un bicchiere di vino e se ne andavano. E lì ho incontrato il personaggio principale, non vorrei chiamarlo protagonista, perché che si chiama Massimo, detto Erpantera, e lui, insieme a lui, ho iniziato a conoscere altre persone. Lui gestisce un bar che chiamavano tutti Bisca, c'era a frequentare sta Bisca e niente, ho iniziato a raccogliere le loro testimonianze. Ma che tu, cioè, rispetto all'esperienza che hai vissuto, su questo poi ci torneremo sopra, perché insomma si vede anche che sei coinvolto, stai dentro la storia che racconti. Volevo chiederti anche che tipo di diffusione ha questa realtà, nel senso, come si vive, come è vissuto una zona come il Laurentino 38? Come è vissuto? Ovviamente, cioè, io vorrei sottolineare il fatto che la mia non è una descrizione del quartiere Laurentino 38 in quanto tale, perché come se uno, storie del genere possono stare a Scampia, possono stare in provincia di Catanzaro, a Palermo, a Milano, ma anche a Berlino, a Londra. Io ho vissuto anni a Londra e ho visto anche nella provincia britannica, comunque realtà del genere ci sono. quanto è diffuso il cioè là era una zona che negli anni 80 neanche i taxi si portavano, sì. Era una zona ad alta intensità di criminalità organizzata e secondo me questo qua è ciò che rimane sul bagnasciuga dopo l'onda lunga della criminalità organizzata che ha creato disastri, tragedie che neanche io mi aspettavo di incontrare, perché te parli con una persona, ti dice una cosa, poi se ne somma un'altra, ogni giorno che va là c'è sempre qualcosa. Sì, sì, sì, sì. Oh, tra violenza, droga e carcere, un'esperienza che immagino ti abbia segnato profondamente, ecco, come l'hai vissuta, visto che comunque durante il documentario vieni anche tirato in ballo? Sì. La droga, il carcere, tutto questo aspetto, questi aspetti io non è che sono erano secondari per me, però sì, perché io volevo, ho cercato di raccontare loro in quel determinato momento, sì. Quindi io non è che mi riferivo oppure insistevo tanto sulla loro esperienza in carcere, sui reati che avevano commessi oppure sulla droga. Io la cosa che posso dire è che mi sento tuttora emotivamente responsabile delle loro emozioni, questo sì. Mm-mm-mm. E questa cosa qua profondamente mi ha segnato. Mm-mm-mm. Senti, tra l'altro ascoltando e vedendo queste storie ne emerge un forte senso di emarginazione e solitudine. Sì. Mm-mm. Sì, questo sì, è la molta, per quanto poi loro provano a riunirsi, perché comunque anche la bisca di Massimo, lui dice che comunque almeno c'è un luogo di ritrovo dove la gente va là e si sfoga, poi quando stanno insieme sono molto goliardici, però poi quando c'è ciò che io volo, ciò che ho cercato è stata l'intimità, e quando stanno poi nelle loro case, parlano con me, io vedo che tutti i loro sfoghi, che poi loro si rivolgevano a me, non alla macchina, sì. Quindi erano proprio sfoghi di persone che non sono mai state ascoltate da nessuno. Sì, in questo senso si sente anche un forte il disagio proprio esistenziale. Sì, cioè proprio, ma anche fisicamente il quartiere isolato, perché è un anello viario, sì. Sovrastato da ponti e intorno non c'è praticamente nulla, cioè è sta tra la Laurentina e la Cristoforo Colombo e c'è proprio anche un isolamento fisico del quartiere. Senti Luca, com'è stato vissuto al festival, visto anche che insomma è stato premiato come miglior documentario, e che reazioni ha suscitato? Le reazioni sono state meglio di quello che insomma che mi potevo aspettare, insomma è stato vissuto, cioè la prima è stata un successo, la prima proiezione, poi sono andato il giorno dopo alla seconda proiezione, mi sono messo là, volevo vedere le facce che uscivano, alcune erano abbastanza livide anche, però io sono molto contento delle reazioni e anche di come hanno scritto i giornali sul film. Devo dire, mi ritengo soddisfatto, è stato io volevo comunque denunciare una situazione e rispetto alle reazioni penso di esserci riuscito, almeno spero. Ecco, proprio in questo senso Pezzi sembra avere molti significati. Sì, moltissimi, ovviamente il primo significato è l'unità di misura della cocaina che a Roma si chiama Pezzi, cioè un pezzo, però è riferito anche banalmente a pezzi di vita ed è anche riferito alla struttura narrativa che non è classica, per cui c'è un inizio, una parte centrale, una fine in cui il personaggio si evolve, c'è una vicenda che accomuna un pochettino tutto quanto. No, io ho cercato di raccontare ciò che io vedevo e quando te stai in quella realtà è difficile, cioè anche all'interno della stessa giornata ci stanno vari eventi che sono completamente scollegati l'uno dall'altro, poi non avendo loro una speranza a lungo termine, ma neanche nei 2, 3, 4 giorni, e non potendo programmare la propria vita nel futuro, ogni giorno è un piccolo pezzo della loro vita che però non ha un legame col giorno successivo più di tanto, quindi è proprio difficile anche forzare una narrazione classica. Quindi io ciò che ho fatto ho solamente registrato ciò che loro avevano da dire e gli eventi che mi si trovavano davanti. E poi ho editato, questo è quello che ho fatto da tantissimo materiale che ho raccolto, circa almeno 70 ore. Senti Luca, che ne sarà ora di pezzi dopo il Festival di Roma? Io spero, allora noi stiamo puntando molto ai festival internazionali, al mercato internazionale, io spero tantissimo che il film possa andare nelle sale e ci stiamo lavorando anche a questo. Bene, allora spero di risentirti presto a questo proposito. E Luca, un abbraccio. Un abbraccio a voi. E in bocca al lupo. Ciao. Grazie, grazie il lupo. Grazie. Luca Ferrari, regista del documentario Pezzi, premiato come miglior documentario alla 7ª edizione del Festival del Film di Roma, concluso da poco. In collegamento con Massimo Bondielli, regista del documentario Se io fossi acqua, che sarà presentato alla Spezia, al cinema Il Nuovo, il 1° dicembre. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, un saluto a te e un saluto a tutti i radioascoltatori. Se io fossi acqua, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando, Se io fossi acqua è il racconto dell'alluvione che è successa in Val di Bara il 25 ottobre del 2001. Sì. Ed è raccontata attraverso la ricerca però dell'essenza della comunità umana, di questa piccola comunità, di questa valle dell'Appennino Ligure, che dopo questo dramma ha reagito solidale e ha riaffermato la propria coscienza di luogo e il valore forte della memoria. Noi abbiamo scelto di raccontare la rinascita dopo il dramma. Siamo stati con loro per 10 mesi e abbiamo appunto raccontato gli eventi successi dell'alluvione, quindi il dramma, ma poi dopo abbiamo anche raccontato quello che è successo dopo, cioè ci siamo fatti raccontare storie e da queste storie è venuto fuori una forza, un percorso, una coscienza di luogo forte e radicata, e noi abbiamo cercato di raccontare tutto questo. Senti, come siete venuti a conoscenza di questa storia? Allora, praticamente, allora il documentario siamo 3 autori, sì. Per prima cosa sono io, che sono anche regista, e poi Marco Matera e Luigi Martella. Praticamente Luigi Martella è un biologo, oltre a essere sì. autore del documentario, e per lavoro è andato in queste terre per fare dei campionamenti. E si è reso conto del devasto che c'era in questi luoghi. Di lì è partita l'idea. Abbiamo deciso di raccontare questa storia per lasciare i riflettori accesi su questa piccola valle che se no sarebbe stata dimenticata, perché diciamo che tutta l'attenzione di quell'evento era spostato sulle 5 terre. E di lì siamo partiti, siamo andati su, ci siamo resi conto di quello che era successo e abbiamo deciso che bisognava raccontare. Mm-hmm. E di lì siamo partiti per raccontare. Senti, il problema delle alluvioni, il dramma delle alluvioni è piuttosto ricorrente e anzi sempre più frequente in questo paese. Si grida sempre dopo a tragedie avvenute del problema della cementificazione, della costruzione in luoghi in cui non dovrebbe essere edificato. Ecco, volevo chiederti in questo senso, qual è stato l'esempio virtuoso, l'insegnamento che si può trarre invece dalla tragedia che ha colpito quel paese? Allora, diciamo che la tragedia che è avvenuta, diciamo che è stato un evento straordinario. Sì. Diciamo che l'insegnamento che forse è venuto da tutto questo, più che una prevenzione, è un'autoprotezione civile che loro sono riusciti a mettere in moto subito dopo l'evento. Sì. Cioè non hanno aspettato gli aiuti della protezione civile, delle forze dell'ordine, che sono logicamente arrivati, però loro sono rimasti isolati per 3 giorni. In questi 3 giorni loro si sono autoaiutati, definiamo così. Cioè è venuto fuori il volontario che il volontariato che è loro. Mm-hmm. E quindi senza fermarsi al dramma, alla disperazione che c'era, perché avevano perso tutti, molti hanno perso la casa, hanno perso i propri beni, loro si sono subito messi in moto, cioè hanno subito riniziato a ricostruire. Mm-hmm. E questo è un insegnamento forte, cioè l'essere pronti. Purtroppo questi eventi, come abbiamo visto e come stiamo vedendo purtroppo anche in questi giorni, sono sempre più frequenti. Mm-hmm. Bisogna prenderne atto ed esserne coscienti, essere pronti. In questo senso l'auto-organizzazione e la solidarietà mi sembra che siano state due armi fondamentali in questo episodio. Sì, diciamo che la solidarietà che si è mossa è stata magnifica, cioè diciamo che sono arrivate in aiuto persone da tutte le parti, di tutte le età, che si sono messe insieme alla protezione civile e hanno aiutato questa popolazione a risollevarsi. È stato loro veramente. C'è una frase molto bella che dice che il volontariato ha colpito a livello emotivo come l'alluvione. Mm-hmm. Perché non ce l'aspettavano ed è stata veramente, veramente una sorpresa. Mm-hmm. Senti Massimo, però dopo la tragedia mi dicevi comunque siete stati parecchio tempo, ecco, quanto avvenuto ha poi avviato un dibattito, una riflessione rispetto a un altro modo, un modo diverso di vivere il territorio, soprattutto per quanto riguarda poi l'aspetto dell'edilizia? Allora, intanto diciamo che noi alla velocità abbiamo scelto la lentezza. Sì. E questo sia perché ci crediamo e sia perché ce l'hanno insegnato loro, nel senso che potevamo raccontare l'evento, potevamo raccontare il dramma, venircene via e avere la nostra, certo, storia. Invece abbiamo capito che c'era molto di più, abbiamo voluto scoprire questo di più, ci siamo seduti con loro, abbiamo parlato con loro, ci siamo fatti raccontare delle storie. Mm-hmm. E abbiamo visto che queste storie contengono veramente una memoria forte, una memoria che con i valori fondamentali della vita. Mm-hmm. E siamo stati con loro. Per quanto riguarda la cementificazione, diciamo che questo è un piccolo borgo, un paesino di 600 abitanti. Certo. Quindi diciamo che il problema della cementificazione in questo caso non c'è. Quindi non c'è. Diciamo che loro Pignone, che si chiama questo posto, è il classico paese di una vallata, come ce ne sono tanti in Italia. Sì, sì, sì, sì. Quindi il problema della cementificazione in questo caso non c'è, diciamo. Certo. Senti, allora ci sarà questa presentazione alla Spezia il 1° dicembre e poi che strade seguirete? Ma allora, diciamo che il documentario è completamente autoprodotto. Quindi noi vogliamo far conoscere questa storia, perché secondo noi sono storie che bisogna conoscere, che bisogna sapere, e quindi stiamo cercando di trovare spazi dove proiettare. Mm-hmm. In qualsiasi parte d'Italia siamo disposti ad andare direttamente e portare il nostro documentario per farlo vedere. Mm-hmm. Al momento non abbiamo distribuzione, non abbiamo produzione, quindi diciamo che tutto per ora si basa sulla nostra voglia di far conoscere questa storia. Senti, il titolo, Se io fossi acqua? Se io fossi acqua, quando ci siamo messi a scegliere un titolo, alla fine ci è venuto in mente questo, perché l'acqua praticamente è la vita, quindi nonostante tutto quello che è successo a loro, l'acqua gli ha portato via i loro beni, gli ha portato via la casa, gli ha portato via tutto, rimane sempre una cosa fondamentale. Mm. E infatti nel racconto, insomma, è molto bello, perché diciamo che questa è una comunità che si basa molto anche sull'agricoltura, quindi per loro l'acqua era fondamentale. E noi infatti siamo stati lì, abbiamo raccontato questo, abbiamo raccontato come loro sono riusciti a ripristinare l'impianto irriguo da soli, per coltivare di nuovi campi, e l'abbiamo accompagnati così fino a una festa molto importante che loro fanno in agosto, che è una loro rinascita praticamente. Quindi noi abbiamo visto dalla distruzione completa, alla perdita di tutto, dove non c'era più la speranza di poter rimettersi a coltivare campi, perché veramente erano devastati dopo l'evento, a vedere l'acqua, ritornare nei campi, a vedere seminare, a vedere raccogliere i frutti della terra, e poi alla festa. Senti Massimo, è in rete, per saperne di più e prendere contatti dove si può cercare? Allora, in rete abbiamo un sito che è in fase di costruzione però già visibile, seiofossi.com, dove ci sono tutte le informazioni, dove si può vedere un demo di 7 minuti, ci sono informazioni su come è nato il progetto, chi siamo e perché l'abbiamo fatto. Bene, allora Massimo, spero di risentirti presto, un abbraccio. Un abbraccio e grazie dell'ospitalità. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, Massimo Bondielli, regista del documentario Se io fossi acqua. Vi ricordo che questa è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, e per saperne di più la scaletta la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Proseguiamo con gli ospiti. Pietro Maffio, co-regista del documentario Monte Cilfone, che era stato in Lizza al Via Emilia Doc Fest. Intanto Pietro, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora, intanto com'è andata al Via Emilia? Ma non siamo stati in concorso, non siamo arrivati tra i primi tre, però è già stata una tappa veramente importante di potervi partecipare. Senti, un'esperienza bellissima, ma soprattutto poi il fatto di poter girare questo documentario, il risultato poi che ne è uscito è stato straordinario, anche riguardandolo dopo tanto tempo è wow. Qual è la storia che raccontate? Ma non abbiamo una storia, sì. Raccontiamo le storie che abbiamo potuto osservare, semplicemente osservare, nei 10 giorni in questo paesino a Monte Cilfone, in provincia di Campobasso, nell'agosto del 2011. Quindi in questo documentario si intrecciano un po' le storie, a volte quasi assurde, viste dalla telecamera, degli abitanti di questo piccolo borgo sperduto tra le colline. E da dove viene questa scelta? Ah, questa scelta viene la scelta di fermare Monte Cilfone da Claudio Salvi. Questo documentario innanzitutto è stato realizzato da Claudio Salvi, Lorenzo Apolli e poi me. Siamo i componenti della troupe, abbiamo seguito la scuola di cinema serale, il corso di documentario alla Fondazione Milano, e il soggetto è stato proposto da Claudio Salvi, che è originario, una parte della sua famiglia è originaria di Monte Cilfone, quindi una realtà che lui conosceva da vicino e che aveva voglia di filmare. E che realtà si vive a Monte Cilfone? È una realtà, te lo dico un po' in modo banale da cittadino, fuori dal mondo, perché io non conoscevo nulla. E arrivando lì così da Milano, beh, è stato un impatto quasi scioccante, è surreale come realtà. Non so, c'è per esempio nell'immagine del Via Emilia Film Festival, c'è questa sequenza al bar, e dietro il barman c'è caffè freddo 1 euro anche senza zucchero, quindi c'è proprio, questo è un po' il simbolo di questo paesino dove ha tutto un suo habitat, diciamo, un suo ecosistema che per noi osservatori esterni risulta assurdo, probabilmente sicuramente per loro è assurdo il nostro mondo, quindi un po' è stato il confronto con questa realtà. Senti, di quante anime è composto Monte Cilfone e di cosa si vive? È un paesino che ha sofferto e soffre tuttora di spopolamento, è circa 1 migliaio, la popolazione aumenta d'estate, penso del doppio, in occasione delle vacanze. la cosa bizzarra era vedere le targhe delle macchine. Penso sia la città più internazionale che abbia mai visto, perché targhe belghe, inglesi, tedesche, mentre beh, nei mesi invernali penso solo anziani e qualche giovane. Si vive. Ora beh, la crisi è arrivata anche lì. Penso principalmente di pensioni. Si vive a Montecilfone oggi. È un paesino che è stato contadino, molto povero penso, e poi ha avuto una sorta di riscatto negli anni del boom economico grazie alla vicina industria della Fiat sulla costa. Mm-hmm. Però una vita molto difficile ha caratterizzato le persone che hanno abitato in questo borgo. Mm-hmm. La cosa un po' interessante è che oltre alla internazionalità delle targhe, la presenza, il numero elevatissimo di bar che caratterizzano Montecilfone. Si vive al bar. si vive al bar. Senti Pietro, però dicevi che vive di pensione, quindi il rischio è quello di un paese che sta morendo. Ci sono però dei segnali di sopravvivenza in qualche senso? La mia conoscenza consiste in quei 10 giorni di osservazione. Grandissimi segnali non li ho visti, però non posso neanche qui portarti un'analisi veramente puntuale di Montecilfone oggi, sono passati quasi un anno e mezzo. Sì. A quanto ricordo non mi sembra, c'è la crisi che investe le industrie, quindi gli impiegati in quel comparto si trovano a far fatica, i giovani penso vadino verso la costa, ma anche lì la costa è Termoli, quindi per studiare vanno nelle grandi città. Grandi segnali di ripresa, no, un po' il turismo, il comparto turistico può rappresentare un volano di ripresa, ma ecco, anche da questo punto di vista, posti bellissimi, magnifici, una cultura alimentare, tradizioni veramente radicate nel tempo, grandi investimenti, grandi progetti, a parte alcune realtà veramente interessanti, no. Senti, quali sono gli argomenti trattati dalle voci che animano il vostro documentario? Gli argomenti trattati sono scelti dalle persone intervistate. Non abbiamo deciso di guidare l'intervista o impostare su binari scelti da noi la conversazione. Andavamo lì con la macchina da presa, con il boom, ci mettevamo anche in posizioni le meno invasive possibili, per quanto con una Panasonic di Vixen si potesse fare, e poi la gente ci raccontava un po', chi la signora anziana parlava, ci faceva vedere le foto di famiglia, oppure i due anziani di 90 anni ciascuno, penso, parlavano sul modo di fare le fotografie, che nel 2011 era veramente diverso dagli anni 30, immagino. Era quello che a loro veniva in mente, passava per la mente. Alcuni poi si trasformavano una volta ripresi, iniziavano un po' a parlare delle vecchie tradizioni. Però il documentario veramente racconta la realtà di Borgo, come il Borgo ha deciso di rappresentarsi ai nostri occhi. Noi siamo proprio andati lì con l'osservazione, non chiedevamo nulla se non il permesso di poter filmare. Quindi una testimonianza dal luogo stesso, insomma. Sì, dal luogo, ma senza cercare di mettere in evidenza, non so, la realtà bilingue, certo, perché è un borgo, non so, questo aspetto quasi da documentario della Rai. No, siamo proprio andati lì osservando. Sì, sì, sì, e poi sì, il borgo si era presentato e sono state anche delle... Il risultato poi è quel documentario, quindi delle realtà anche un po' assurde, molto curiose, ecco. Cioè, interessanti. Senti, prossimamente dove sarà fruibile? Allora, penso innanzitutto sia fruibile sul sito di Via Emilia Film Festival. Penso, bisogna verificare, ma durante il festival si poteva visualizzare online. Non so se l'abbiano... Beh, non credo a fine festival i documentari poi non siano più visionabili. Non siamo, ok, l'hanno l'atmosfera su Instagram. Ma per ora altri appuntamenti non sono ancora stati decisi, ma tutto viene aggiornato sul sito di Fondazione Milano. Ah, beh, perfetto. Quindi perfetto. si può consultare lì. Bene. E voilà. Bene Pietro, allora magari a risentirci per le prossime novità e nel frattempo ti abbraccio. Grazie mille, grazie a voi e beh, in bocca al lupo per la trasmissione. Buon pomeriggio. Grazie Crepi, a presto, ciao. Ciao Pietro. Ciao, grazie. Pietro Maffio, co-regista del documentario Montecilfone. Ho un altro lavoro in concorso, che è stato in concorso al Via Emilia Doc Fest, Africa Nera, Marmo Bianco. Siamo in collegamento con Clemente Bicocchi, che ne è il regista. Clemente, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie. Saluti allora, a tutti. Una storia che parla di Africa, in che modo, Clemente? È in modo un po' particolare, perché racconta una storia, in realtà racconta due storie che sì, si svolgono a distanza di 100 anni l'una dall'altra, ma che in realtà poi alla fine, come dire, diventano un'unica grande storia, che è una saga, diciamo, che raccontata in modo non convenzionale, non è un documentario classico, è quasi una... come se fosse una grande storia di avventura, e le due storie sono appunto una che è una storia praticamente sconosciuta in Italia di un esploratore italiano ma naturalizzato francese, che è Pietro Savorgnan di Brazza, che 100 anni fa con una piccolissima spedizione si inoltrò nel cuore del Congo fino ad arrivare a incontrare il grande re della più grande tribù di quella zona, che era appunto il re Makokoilo I, entrò nella, è il primo caso di un, come dire, di un europeo che è entrato a far parte della leggenda del posto, del luogo, per cui viene anche oggi definito il loro antenato bianco, perché il suo modo di rapportarsi con l'altro era per l'epoca assolutamente rivoluzionario, e per cui piano piano si iniziò a creare questo mito di questo bianco, che era visto in un modo totalmente differente. Dicevano: ma questo non è un bianco, è un nero a cui hanno levato l'ultimo strato di pelle, e questo in un certo senso è spiega la prima parte del titolo, che è Africa Nera, che in un certo senso era il modo nel quale era vista l'Africa appunto all'epoca, all'inizio della colonizzazione, quindi sì, nell'epoca dei grandi esploratori, diciamo. Sì, sì. Marmo Bianco invece è riferito alla seconda parte della storia, perché lo stesso Brazza, dopo essere diventato poi l'amministratore coloniale per la Francia di quell'area, si batté furiosamente contro lo sfruttamento da parte delle grandi società concessionarie, che erano un po' le antesignane delle multinazionali di oggi, e fino a morirne, per cui come dire, non è, diciamo, ancora la sua morte rimane un mistero, però probabilmente fu ucciso quando guidò una missione d'inchiesta per far venire a galla tutte le atrocità commesse da queste società concessionarie. 100 anni dopo il governo del Congo ha voluto costruire un grande mausoleo di marmo bianco, appunto, di marmo di Carrara, costato una marea di soldi, per far tornare il grande esploratore Brazza. Tutto questo però contrastava con la visione rivoluzionaria che aveva Savorgnan di Brazza, che era, diciamo, gli eredi del sistema che in un certo senso lo avevano ucciso, lo richiamavano lì facendo una cosa totalmente fuori fuori misura, e quindi in un certo senso cambiando la sua memoria, perché proprio dopo l'idea di costruire questo mausoleo allora iniziarono a venire fuori critiche, come opinioni anche negative su di lui, che fino allora invece era stato un, come appunto, un considerato un antenato bianco, quindi qualcuno di amato, rispettato, tanto che la città di Brazzaville, rispetto per esempio a Leopoldville, che era la città di che è la città di fronte, che ha cambiato nome in Kinshasa, Brazzaville era rimasta Brazzaville, proprio perché Savonian di Brazza era considerato parte della loro storia. E allora una discendente di Savonian di Brazza si è battuta contro tutto questo, e quindi la seconda parte del film, o comunque sia l'altra metà del film, perché poi le due storie sono intrecciate, racconta la battaglia di questa discendente di Savonian di Brazza per onorare la sua memoria. Mm-hmm. E quindi in un certo senso è una storia molto simbolica, sì. Ma secondo me appunto nei simboli e anche in una, come dire, in una storia, in una piccola storia, in realtà poi vengono fuori tematiche molto più importanti e profonde, diciamo. Sì. Anche perché mi sembra molto consueto il celebrare per stravolgere poi le realtà, le verità storiche, i pensieri delle persone. Sì, certo, perché appunto questa idea di fare un grande mausoleo, di far venire lui come se fosse stato un capo di Stato, sì, sì, sì, in sì. un certo senso, come dire, celebrava la prima la parte più, come dire, più bella e eroica della sua esperienza, ma lui ha avuto anche un'esperienza tragica e drammatica in cui lui è stato, come dire, il primo e lui in quell'area lì l'unico a battersi contro un sistema di relazioni fra l'Europa e l'Africa, che poi è durato fino a oggi. Mm-hmm. E come dire, non prendere in considerazione questa parte della sua vita e quindi della sua figura, in un certo senso è avallare un rapporto che poi appunto lì è stato deleterio, perché certo. Se si pensa poi a quello che è successo invece nel quello che era il Congo belga, dove appunto basta leggere Cuore di Tenebra per capire come tutto questo poi aveva creato un sistema assolutamente inumano. Mm-hmm. Senti Clemente, come è rivenuto a conoscenza di questa vicenda? Questa discendente mi ha raccontato, siccome aveva visto un film che avevo fatto prima, gli era piaciuto, non aveva in mente ancora di fare un film, però come dire, mi raccontò tutta questa storia chiedendomi se secondo me fosse stato possibile farne un film. Io mi sono subito appassionato perché so anche la storia di Savonian di Brazza è una storia incredibile, una storia, come dire, avventurosa, bella, e soprattutto anche il fatto che poi dopo c'erano le leggende del popolo Tehe rispetto a lui, quindi anche questo cambio di prospettiva, cioè di un, come dire, la visione di questo bianco che è assolutamente particolare, che si inoltrava nella foresta del Congo con una piccolissima spedizione, che veniva seguito appunto dagli emissari di questo re, che raccontavano delle leggende assolutamente straordinarie su di lui, perché poi all'epoca pensavano che i bianchi fossero mostri venuti dal fondo del mare per mangiare i bambini, e quindi dicevano: no, ma questo non è un mostro. E insomma, tutta questa mi raccontò per 8 ore praticamente, sia la storia, la storia avvenuta 100 anni fa, sia questa sua vicenda di oggi. E mi disse: ma secondo te possiamo farne un film? E io, come dire, per i successivi 2 anni mi sono scervellato. Ho cercato di unire queste due storie per farne una storia sola. Ma al di là della vertenza tra istituzioni ed eredi, come è stata vissuta questa vicenda invece dalla popolazione? Allora, praticamente la storia è questa, che perché all'inizio l'idea era di far tornare il corpo di Savonian di Brazza e portarlo nella foresta a Mbe, che è il posto dove vive adesso il discendente del re Makoko I, che era quello che aveva segnato questo trattato di amicizia con Savonian di Brazza, in cui avevamo fatto anche questa cerimonia bellissima della sepoltura della guerra. E diciamo, questa idea, che appunto che era un'idea molto poetica e bella, poi era stata cambiata dal governo del Congo per fare una cosa invece molto più di pubbliche relazioni, per riportare appunto possiamo dire il capo di Stato Savonian di Brazza in questo grande mausoleo. Chiaramente da quel momento in poi le persone hanno iniziato a, come dire, a modificare la memoria rispetto anche alla sua figura, e allo stesso tempo il governo aveva messo da parte il Makoko attuale, cioè l'erede di Ilo I, quindi diciamo l'altra metà di questa storia, per motivi fondamentalmente politici. E la battaglia di Danna, che è la discendente, è stata di almeno rivalutare, come dire, far riavere la legittimità al re. E quando il re allora alla fine è entrato a Brazzaville per assistere alla cerimonia, c'erano una marea di persone in festa, perché per loro era, come dire, un motivo di rispetto della loro vera tradizione. E chiaramente appunto l'idea la battaglia dei discendenti, soprattutto appunto di Danna, che è quella che Danna Pucci, che è quella che poi mi ha raccontato la storia e mi ha supportato per fare il film, era una battaglia assolutamente simbolica, però secondo me, come dire, anche nel suo valore simbolico aveva una forza, una necessità di essere portata avanti. Infatti lei ancora oggi è in causa contro il governo del Congo, perché in realtà le condizioni che aveva posto per lasciare che il suo antenato fosse portato a Brazzaville, in realtà queste condizioni non sono state rispettate, e ancora oggi c'è una battaglia. Mm-hmm. Chiaramente, come dire, sono condizioni che in un certo senso cercano di ristabilire una memoria storica e un rispetto delle tradizioni, per cui appunto il fatto che in questo grande mausoleo venga messa una statua anche del Makoko I, che era, come dire, l'altra metà di questo, come dire, se dobbiamo celebrare Savonian di Brazza, dobbiamo celebrare anche il Makoko I. E quindi, è una storia che non è un film apertamente un reportage di denuncia, ma però secondo me, raccontando una storia anche attraverso dei simboli, in realtà poi nasconde molti altri, certo, temi. Certo. Senti Clemente, dove sarà possibile vederlo dopo che è stato a disposizione? Allora, questo film ha girato molto all'estero, sì. Molto, insomma, ha girato un po' di festival all'estero. Ora in Italia, martedì lo proietto a Torino. A Torino, in un posto che si chiama Il Piccolo Cinema. E poi dopo, spero, come dire, in Francia abbiamo vinto il premio per il miglior documentario a Annecy, e quindi ora speriamo di riuscirlo a farlo vedere un po' in Francia. È andato in Brasile, in America farà un giro di di vari posti, di varie città americane, in un tour di film che parlano di Africa, e poi non lo so. Io spero di farlo vedere il più possibile. Certo, ma c'è un sito internet di riferimento tuo del documentario? Lo stiamo facendo. Ok. Lo stiamo facendo, siamo un po', cioè siamo, come dire, una il film, nonostante che racconti una storia, come dire, grande, è fatto con pochi mezzi, quindi siamo, come dire, è un piccolo film che racconta una grande storia, diciamo. Va bene, allora magari ci sentiamo prossimamente, Clemente. Ok. Un abbraccio, a presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Clemente Bicocchi, regista del documentario Africa Nera, Marmo Bianco, e dovremmo avere un ultimo collegamento per parlare di un festival milanese. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, per parlare del Filmmaker Film Festival, ne parliamo con il direttore Luca Mosso. Il festival si terrà allo Spazio Oberdan, alla Fabbrica del Vapore, al Cinema Palestrina a Milano, dal 30 novembre al 9 dicembre. Luca, intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ci Buongiorno sei? A Eccoci. Tutti. Da domani cominciamo domani. Esatto. E allora, in tre luoghi, intanto parlaci di questo festival del Filmmaker. Filmmaker è un festival storico, cioè è il 32esimo anno che facciamo Filmmaker, è stato un po' il primo festival che si occupava di cinema indipendente all'inizio degli anni 80. Naturalmente sono cambiate le persone che l'hanno fatto, però ha mantenuto una caratteristica, quella di essere un festival laboratoriale, in cui si vede il cinema, si vedono bei film, quelli che noi selezioniamo, che noi reputiamo ovviamente che siano i migliori, i più belli, i più interessanti, i più utili, e però questo vedere film diventa un alimento per fare il cinema. Noi abbiamo sempre fatto delle produzioni, finanziamo dei giovani registi, e quest'anno abbiamo un piccolo progetto ma molto significativo che si chiama Passion ed è intitolato al nostro ex direttore che ci ha lasciato un paio d'anni fa, Silvano Cavatorta, che ha contribuito a realizzare tre cortometraggi di giovani registi e artiste sul tema della passione, che sono dei film molto sorprendenti. Marta Roberti ha fatto un film di animazione, è un'artista che lavora con il cinema di animazione e con il disegno. Poi c'è Nicola Rubini che ha fatto una sorta di storia, vita, una giornata di un fiume dalle sorgente fino alla, non alla foce, ma insomma fino alla pianura, e Giada Totaro che ha invece lavorato con delle ragazze problematiche ospitate di una compagnia che si chiama Delfine, e ha costruito una sorta di corso di laboratorio che viene documentato in questo film che si chiude con un videoclip pensato e progettato dalle ragazze. Senti Luca, più in generale, come si struttura dal punto di vista delle proiezioni, delle presentazioni dei lavori e dall'altra dal punto di vista invece della realizzazione? Allora, dal punto di vista delle proiezioni, tutto sommato è come tutti gli altri festival. Noi abbiamo un concorso, un fuori concorso, abbiamo una retrospettiva che appunto un'anteprima importante, una seconda visione italiana che è tutto parla di te di Alina Maracci, che è stata una regista milanese che ha cominciato con Filmmaker. Il primo lavoro di Alina Maracci è stato proprio finanziato con questo modello produttivo di Filmmaker, su un progetto che lei presentò nel 91, se non sbaglio, e che venne finanziato. Lì è cominciata la sua carriera, come quella di Michelangelo Frammartino, come quella di Silvio Soldini negli anni 80, eccetera, eccetera. E quindi questa è un po' la nostra apertura. Poi abbiamo un concorso che è dedicato al cinema documentario sostanzialmente, anche se ci sono dei film un po' di confine fra il documentario e la finzione. Sono 10 titoli e il primo di questi è L'Impenetrabile di Daniele Incalcatera e di Fausto Quattrini, che verrà proiettato alle ore 18 sabato 1, e poi ogni giorno ci sono uno o due film del concorso. In generale, quante sono le opere che presenterete? Noi abbiamo una sessantina di opere, 10 in concorso, appunto, poi in altre varie sezioni. E sotto l'aspetto invece della realizzazione dei laboratori? Allora, il laboratorio che stiamo facendo adesso è un laboratorio che è iniziato a giugno e abbiamo selezionato sulla base di un bando una cinquantina, 50, poi qualcuno sa, insomma, 50 giovani filmmaker. Già dei giovani professionisti, cioè gente che aveva già fatto almeno un film proiettato in pubblico, che però under 35. E questi hanno, abbiamo proposto loro un percorso molto interessante, a mio parere, con per esempio Michelangelo Frammartino e Leonardo Di Costanzo, che hanno preso in esame proprio i progetti dei ragazzi, li hanno analizzati uno per uno, mettendogli in evidenza i punti deboli, dando i suggerimenti per lo sviluppo, eccetera, eccetera. Poi ci sono stati dei produttori come Paolo Benzi e anche un filosofo dell'immagine come Fulvio Carmagnola, insomma, tutta una serie, un percorso molto articolato che terminerà alla fine dell'anno, entro il 31 dicembre, con la presentazione di un progetto. I 10 progetti migliori verranno vinceranno un sostegno ulteriore nell'anno prossimo per andare a trovare dei partner produttivi, cioè produttori, ma anche fondi pubblici, fondi privati, fondi di fondazioni, co-production market dei festival internazionali, e 3 di questi avranno anche una dote in denaro, un finanziamento in denaro per ulteriormente sviluppare questo lavoro, cioè di 8.000 euro a testa. Il festival è al centro di questo percorso perché abbiamo chiesto ai nostri ospiti, agli autori che abbiamo dei film che abbiamo invitato, soprattutto quelli in concorso, soprattutto quelli internazionali, ma non solo, di invece semplicemente presentare il film, di fare una vera e propria lezione che avrà aperta a tutti, ovviamente a tutta la città, ma che avrà come interlocutori, diciamo così, privilegiati i ragazzi che stanno seguendo questo processo. In qualche modo vogliamo fondere la formazione, la post-formazione che stiamo facendo con la visione del festival. Credo che questo, in un momento in cui ci sono tanti festival, tutti interessanti, noi puntiamo su questa specificità, che è la cosa che ci contraddistingue, la cosa che ci piace, che sappiamo fare meglio. È la cosa che prefigura un po' un percorso di chi vede il cinema, gli ama il cinema, lo vede sullo schermo e poi da lì gli vengono le idee di fare il cinema, cioè non è il modello un po' che nasce con la Nouvelle Vague, se vogliamo, no? Sì. Di cinefili o di spettatori appassionati che poi a un certo punto vogliono passare dietro alla macchina da presa. Allora Luca, ci dai riferimenti internet per quanto riguarda la programmazione? Il nostro sito è www.filmmakerfest.com, lì c'è il programma giorno per giorno, potete scaricarvi notizie, fotografie, il programma, ci sono una serie di iniziative, c'è anche un dopo festival, sempre alla Fabbrica del Vapore, dove si tengono i laboratori. Alla sera invece ci sarà un momento più rilassato dove, insomma, insieme a l'associazione Inoltre di produttori vinicoli dell'Oltre Po offriremo tutte le sere un bicchiere di vino e ci sarà della musica, ci saranno dei DJ, una musica e delle immagini non tanto impegnative, diciamo così, un fondo dopo una giornata di visioni, un momento invece dedicato alla riflessione, allo scambio di chiacchiere. I festival sono anche questa cosa qui, gli incontri che, certo, si possono fare, certo. No? Bene, allora ricordiamolo, 32esima edizione del Filmmaker Film Festival allo spazio Oberdan, alla Fabbrica del Vapore, Cinema Palestrina a Milano, da domani 30 novembre fino al 9 dicembre. Un abbraccio e un in bocca al lupo, Luca. Crepi il lupo. Grazie presto. A voi. Ciao, ciao, ciao. A presto, ciao. Questo era Luca Mosso, il direttore appunto di questa 32esima edizione, e con lui terminiamo la puntata di Visionari di questa settimana, giovedì 29 novembre del 2012. Ci sentiamo sempre giovedì della prossima settimana, ossia giovedì 6 dicembre, sempre dalle 14 alle 15. I riferimenti li trovate per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Buon proseguimento.